Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Attacco in corso in un hotel della capitale del Mali, presi decine di ostaggi, tra cui diversi francesi. Un'ottantina di persone sarebbe stata liberata, almeno 3 i morti, liberati coloro che sapevano recitare i versi del Corano. Ritrovato un altro corpo nel covo dei terroristi nel quartiere parigino Saint-Denis. Servizi francesi tornano nel mirino. La mente degli attentati fece 6 viaggi in Siria prima delle stragi. Renzi, chi vuole chiuderci in casa non avrà la meglio. Non ci lasceremo prendere dalla paura. Al Colosseo intanto arriveranno i metal detector. Rubate 17 opere d'arte dal Museo Civico di Verona. Tra queste 5 quadri di Tintoretto e dipinti di Rubens e Mantegna. La mafia voleva uccidere il ministro dell'interno Alfano per l'inasprimento del 41 bis. L'indagine porta all'azzeramento del mandamento di Corleone. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I contatti effettogiorno@radio24.it per scriverci, il numero di SMS e WhatsApp, il numero è sempre lo stesso degli SMS, il 349-238-6666. A 7 giorni dagli attacchi di Parigi proseguono le ricerche degli attentatori, mentre emergono dettagli inquietanti sull'uomo ucciso nel raid di Saint-Denis e considerato la mente degli attentati, come vi dicevamo, una serie di viaggi in Siria di andata e ritorno prima poi di colpire. La giornata però è soprattutto segnata in queste ore da un attacco che si presume di matrice jihadista ad un hotel di Bamako, la capitale del Mali, hotel dove spesso soggiornano stranieri e diplomatici. Ci aggiorna in diretta Cristina Carpinelli. Cristina. Simone, come dicevi tu, è appena uscita questa agenzia che non sappiamo se verrà confermata, comunque sarebbero 80 gli ostaggi liberati in seguito al blitz delle forze speciali maliane, questo quanto riporta l'agenzia turca Anadolu. 5 persone rilasciate sono della Turkish Airlines. Il comando di cui parlavi sarebbe composto invece da una dozzina di persone. Ci sono anche diverse ferite tra le persone portate via dall'hotel, 3 invece morti accertati. Si tratterebbe di un francese e 2 malesi, stando però ad altri organi di informazione le vittime sarebbero già 9. L'assedio è iniziato questa mattina secondo fonti ONU. In questo momento forze speciali americane sono all'interno dell'hotel, mentre Al Jazeera riferisce che i terroristi sono jihadisti di Ansar Dine. La notizia era stata data anche dal presidente del Mali. Noi vi facciamo sentire anche questa testimonianza. Ecco, attorno alle 8 del mattino abbiamo sentito delle esplosioni provenire dall'interno dell'hotel. Sappiamo che sono entrati in gruppo e che nell'hotel ci dovrebbero essere 170 persone in ostaggio. Questo quanto ha raccontato un ristoratore che si trova accanto all'hotel e che ha assistito alle fasi almeno iniziali di questa operazione terroristica. Invece arrivano anche le testimonianze di coloro che sono riusciti a scappare dall'hotel. Ho visto dei cadaveri. È orribile. Queste sono le prime parole di uno degli ostaggi liberati, questo quanto riferisce France 24. Dunque i terroristi avrebbero preso in ostaggio 170 persone, 140 clienti e 30 dipendenti dell'albergo. 80 ostaggi sarebbero stati liberati. Tra gli ostaggi ci potrebbero però essere anche militari della missione ONU nel paese, personale delle compagnie di bandiera, soprattutto francesi, dell'Air France. Cosa dire? Proprio ieri il presidente francese François Hollande aveva sottolineato che l'ISIS considera la Francia nemica perché Parigi è intervenuta in Mali. Questo l'aveva detto in un discorso pubblico. Aveva ricordato Hollande che nel 2013 la Francia ha aiutato il Mali ottenendo una vittoria. I servizi di sicurezza del Mali sospettano appunto che dietro l'accordo ci sia il network jihadista Ansar Dine. Ti ringrazio, grazie alla nostra Cristina Carpinelli per questo aggiornamento. Vogliamo dedicare un approfondimento a questo, poi ci torneremo anche più avanti nel corso della trasmissione. Abbiamo in studio con noi Gigi Donelli. Ricordava Cristina Carpinelli che proprio Hollande ne ha parlato ieri e sono stati molti in realtà in queste ore a collegare l'attentato di Parigi non solamente a quello che sta facendo la Francia in Siria, ma proprio a quello che succede nel Mali. Ci riesci, Gigi, a dare un quadro del paese? Ma direi che è sicuramente legato. Ansar Dine, che letteralmente gli ausiliari della religione islamica, è uno di quei gruppi, di quella galassia che ormai, diciamo, dopo gli anni 90 e in particolare dopo il 2000 si è costituita nello spazio del Sahara. Allora, attualmente la Francia è impegnata per ragioni, diciamo, storico-coloniali, per continuità e richiesta dei paesi, in quella che è l'operazione Barkhane. Barkhane peraltro è il nome di una Duna del Sahara. La sua la headquarters, il suo centro, è basato in N'Djamena, ma nella stessa Gao, quindi la seconda città del Mali, circa 1000 km a est di Bamako, c'è la cosiddetta GTA. La GTA è il gruppo tattico interarma dell'esercito francese, e fu proprio questa GTA protagonista della fase più critica nel 2013 del combattimento, di fatto nel momento in cui i jihadisti scesero a sud, scesero dal deserto verso appunto la grande capitale. Bisogna anche immaginare che stiamo parlando di uno spazio che è verso il confine con l'Algeria, quindi il sud dell'Algeria, regno a suo tempo del GIA e poi diventato ACMI quando si fuse all'interno di Al-Qaeda, e oltre nel deserto entriamo tra virgolette nello spazio di Boko Haram. Per completare il percorso sahelita non dimentichiamo che ancora oltre c'è lo spazio di Al-Shabaab, che ci ricorda invece gli attentati di Garissa, gli attentati in Somalia eccetera. Insomma, siamo di fatto nel cuore del regno dei movimenti salafiti radicali, e vede ovviamente, dico la Francia per ragioni storiche e per interessi anche politici ed economici, al centro di questa vicenda, non da oggi. Grazie a Gigi Donelli anche per questa analisi. Come si diceva, torneremo più avanti a parlare di quello che sta succedendo in Mali, ovviamente con gli aggiornamenti. Vi do anche notizia che funzionari iracheni della sicurezza hanno riportato di un attentato rivolto contro una moschea sciita in un quartiere meridionale di Baghdad, che ha provocato 10 morti e 28 feriti. L'attentato è stato eseguito prima con un'autobomba e poi con un attentatore suicida. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Veniamo alle indagini su Parigi per un punto con la nostra Raffaella Calandra. Raffaella. Sì, Simone, le ultime segnalazioni sono molto dettagliate. Si nasconderebbe ad Anderlecht, a 5 km da Bruxelles, l'altro super ricercato del gruppo di fuoco di Parigi, Salah Abdeslam. La scorsa notte, infatti, un'informativa dell'intelligence ha fatto scattare l'ultima caccia all'uomo, ancora una volta dunque in Belgio, con l'innalzamento ulteriore dei controlli nei luoghi di culto e la sospensione di molte attività, comprese quelle di alcune università. Qui sarebbe stato visto, infatti, l'ultima volta, ma ora travestito e con altra identità, quella di Yassim Bouguei, questo 26enne è il più ricercato d'Europa, in fuga dalle polizie ma pure dallo stesso califfato, che potrebbe infatti vendicarsi perché lui non si è fatto saltare in aria venerdì 13. Ma forse la sua sopravvivenza era legata ad altri piani stragisti, forse in uno dei locali per omosessuali considerati dall'ISIS immorali. È una delle ipotesi formulate dopo che più testimoni l'avrebbero riconosciuto come frequentatore di nightclub per gay, oppure forse lì, altra ipotesi, cercava canali per procurarsi documenti falsi e potersi spostare ancora, come avrebbe fatto più volte negli ultimi mesi, passando pure anche per l'Italia, pare, a fine estate, forse in quel nord-est, già cuore di una cellula jihadista da poco individuata dalla Procura di Roma a Milano, che proprio allo stesso procuratore Giancarlo Capaldo, con cui abbiamo parlato poco fa, affida l'indagine per strage. La caccia ai fuggitivi prosegue insieme alle indagini sui luoghi già individuati e al materiale raccolto. Così si definisce ora che il terzo corpo trovato senza vita nel covo di Saint-Denis dopo il blitz giorni fa appartiene anch'esso ad una donna, dunque erano due, almeno due, le donne che si nascondevano in quel covo, oltre alla cugina di Abaoud, la mente delle stragi, che si è fatta saltare in aria. Ora c'è la conferma che si tratta di un'altra donna, anche quel terzo corpo, non invece di Abdeslam, che è invece tuttora in fuga. Simone. E grazie alla nostra Raffaella Calandra. Intanto arriva notizia di un coprifuoco dalle 22 di stasera fino alle 6 di lunedì nel quartiere di Sens, nel Lyon, a sud di Parigi, dopo la scoperta nella zona questa mattina di un deposito di armi nascoste e di documenti falsi. Lo ha annunciato la prefettura di Parigi. E veniamo all'Italia, Italia nella quale di terrorismo torna a parlare il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, mentre arriva notizia di metal detector al Colosseo. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Ecco sì, buongiorno. Il Premier Matteo Renzi cerca di rassicurare i cittadini sull'allarme terrorismo, ma anche di avvisare chi lancia falsi allarmi. In queste ore su WhatsApp, dice Renzi, sta girando un messaggio falso che invita a non uscire di casa. Ho dato mandato agli inquirenti di capire chi è l'autore, perché per me è procurato allarme. Chi vuole costringerci a cambiare vita non vincerà, dice il Premier. Con gli attacchi terroristici si cerca di colpire la nostra quotidianità, ma noi dobbiamo affermare con forza che noi non ci lasceremo prendere dalla psicosi, dell'isteria e della paura. Il giubileo, ricorda Renzi, non è solo l'occasione per fare un po' di lavori e mettere a posto le città, ma serve per ricordarci la dimensione umana che ci caratterizza. Abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo. Un piano per la sicurezza in 8 punti viene invece proposto da Forza Italia, con interventi immediati sulla sicurezza sostenuti da adeguati stanziamenti, tra i quali la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e una verifica sulle attività nel Mediterraneo per scoraggiare l'immigrazione clandestina e l'arrivo degli scafisti. Beppe Grillo invece chiede a Renzi se è vero che l'Italia abbia aiutato l'ISIS. A te, Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Come si diceva dall'altro ieri, lo ha riferito il Francesco Prosperetti, che è il soprintendente speciale per il Colosseo e l'area archeologica di Roma. Stiamo lavorando all'installazione di metal detector al Colosseo esternamente al monumento. Mentre da Roma arriva un'altra notizia di cronaca: paura all'ospedale San Giovanni, dove un uomo, probabilmente italiano, però è entrato all'ingresso principale dell'ospedale armato con un fucile e poi è scappato. Ad allertare le forze dell'ordine è stato un medico che lo ha visto. L'uomo al momento è ricercato dalla polizia. E rimaniamo sulla cronaca per il furto che è avvenuto al Museo Civico di Castelvecchio di Verona, tra le opere trafugate, a quanto pare anche 5 dipinti del Tintoretto. Saluto il sindaco di Verona, Flavio Ottosi. Buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno a voi. Sì, ci sono anche in effetti 5 dipinti del Tintoretto. 5 dipinti del Tintoretto. Quante sono complessivamente, lo usiamo anche un po' come cronista, sindaco, le opere sottratte? Sono 15, di cui 11 di grande valore e 4 diciamo di minor pregio. Perché c'era anche un Rubens. Rubens, Mantegna, Pilanello, quindi c'erano pittori. Il valore è milionario, insomma, complessivamente. Ma come è stato possibile? Ma è stato possibile perché hanno colpito, evidentemente, guardando anche le immagini, era preparatissimo il colpo, perché non hanno mai parlato fra di loro. Sono andati esattamente dove volevano e prelevando esattamente quello che sapevano di prelevare, quindi era preparatissima la cosa. E sono entrati nel momento. Abbiamo perso il sindaco di Verona, Flavio Ottosi. Magari cerchiamo di recuperarlo più avanti. Ce l'abbiamo di nuovo? Ce l'abbiamo. Eccoci qua, sindaco. Nella fase di prechiusura sono entrati, che è l'unico momento critico, dove nel museo non c'è nessuno, dove non è ancora chiuso verso l'esterno, e quindi è il momento in cui la guardia giurata si appresta a chiudere il museo. E loro sono entrati esattamente in quel momento, a mano armata, hanno immobilizzato la guardia e la custode, e poi hanno appunto fatto, si sono trascinati dietro la guardia in museo nel prelevare le opere che appunto dovevano rubare. Ma non c'erano allarmi, sindaco? In quel momento non ancora, perché il museo è quella fase in cui non è chiuso ed è ancora aperto, per capirci, quindi allarmi no. Ci sono tutte le immagini di tutte le telecamere, anche se questi hanno agito a volto coperto, quindi non sarà un'operazione semplice. Adesso sì. Pronto? Sì, ci siamo. Quante persone? Allora, erano in 3, i soggetti erano in 3, e sono fuggiti usando la macchina della guardia giurata, e hanno caricato su quella, quindi avevano pianificato anche questo, poi chiaramente avevano una macchina altrove, e l'idea è quella, guardando appunto le immagini, di veri professionisti, quindi un furto commissionato specifico che gli hanno chiesto e gli hanno ordinato cosa prelevare. Comunque un buco di sicurezza evidentemente c'è stato, sindaco, a prescindere dal fatto che fosse un momento particolare, come lei ci ha spiegato. Ma un buco di sicurezza è che con tutte le norme che vengono applicate, perché evidentemente tutti i parametri di sicurezza c'erano appunto da tutte le riprese delle telecamere e quant'altro, però non è che questo renda impossibile i furti sono comunque possibili, abbiamo visto furti al Louvre come altrove, i furti sono comunque possibili. È chiaro che questo dipende dal coraggio e dalla sfrontatezza di chi opera, e questi sono stati veramente sfrontati nell'agire in questo modo, perché in quell'orario, con quelle modalità, si sono aggiunti anche un margine di rischio notevole. La ringrazio, grazie a Flavio Tosi, sindaco di Verona. Vedremo come proseguiranno le indagini su questa vicenda. E veniamo all'altra notizia che avete sentito nei titoli: questa operazione antimafia questa mattina che ha permesso di scoprire il fatto che alcuni boss stavano pensando di attentare alla vita del ministro dell'Interno Angelino Alfano. Non un progetto ma un'ipotesi allo studio: uccidere il ministro dell'interno Angelino Alfano quando si sarebbe ritrovato senza scorta e senza alcuna tutela, ucciderlo come è stato ucciso Kennedy. La colpa del ministro: aver dato un contributo sostanziale all'inasprimento del 41 bis e dunque del carcere duro per i mafiosi. L'intercettazione del settembre dell'anno scorso ed è emersa nell'ambito dell'operazione Grande Passo 3 condotta dal nucleo investigativo di Monreale e dalla compagnia dei carabinieri di Corleone. I militari hanno eseguito il provvedimento di fermo firmato dei magistrati della Procura Antimafia di Palermo, guidata da Francesco Lovoi. Sei gli arrestati, tra cui il reggente del mandamento di Corleone Rosario Lobue, che era stato nominato a suo tempo da Bernardo Provenzano. Una gestione, quella di Lobue, giudicata troppo pacifista e non condivisa da tutti e soprattutto dall'area che fa ancora riferimento a Totò Riina. Dalle indagini, che sono ancora in corso per altri aspetti, è emersa la forza sul territorio di quella che viene definita ancora la mafia rurale, quella dei Viddani per intendersi, anche se il procuratore Lovoi mette in guardia. Relegare questa mafia a una periferia concettuale è sbagliato. Gli arrestati, che avevano anche in programma un omicidio su commissione, risultano ben inseriti nell'ambito sociale e politico del territorio in cui hanno operato, con rapporti anche con gli amministratori locali, tanto da potersi accreditare per progetti di una certa importanza. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. E anche di questa vicenda torneremo a parlare più avanti. Intanto ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi subito dopo gli aggiornamenti dal lato della legge di stabilità, come ormai spesso accade, che il governo presenta un maxi emendamento e ci mette la fiducia sopra. Vedremo anche qualche contenuto tra un attimo e poi torneremo a parlare di quello che sta succedendo nel Mali. A tra poco. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In primo piano l'attacco in corso in un hotel della capitale del Mali. Sono stati presi decine di ostaggi, tra cui diversi francesi. In 80 sarebbero stati liberati almeno 3 le vittime. È stato ritrovato un terzo corpo nel covo dei terroristi nel quartiere parigino di Saint-Denis. E intanto coprifuoco in un quartiere e un altro quartiere parigino dalle 22 alle 6. Per fronteggiare i costi del Dieselgate, notizia di poco fa, Volkswagen taglierà gli investimenti a un massimo di 12 miliardi per il 2016. Questo vuol dire un taglio di circa 1 miliardo rispetto agli investimenti degli anni scorsi. Sono state rubate 17 opere d'arte al Museo Civico di Verona. Tra queste, 5 quadri di Tintoretto, dipinti di Rubens e Mantegna. Sono state 3 persone, ci ha raccontato poco fa il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Siamo alle cronache quotidiane, come è normale che sia in questo periodo, dalla legge di stabilità, gli aggiornamenti sempre con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Partiamo dai tempi parlamentari, perché l'Aula del Senato sta votando la fiducia sul maxi emendamento presentato dal governo che, secondo il relatore di maggioranza, accoglie tutte le modifiche apportate al testo in commissione bilancio. La legge di stabilità passerà quindi alla Camera, dove si affronteranno i temi più delicati e che sono stati rimandati proprio per questo a Montecitorio. Parliamo del rilancio del Mezzogiorno e quindi della scelta tra credito d'imposta e decontribuzione, il tetto all'uso del contante, il capitolo pensioni, solo per citarne alcuni. Nel passaggio al Senato il testo è stato modificato nella parte che riguarda la tassazione sulla casa e sono state inserite numerose altre micro misure, oltre alle agevolazioni IMU e TASI e alla stretta sugli affitti in nero. Al capitolo casa si aggiunge il rafforzamento del bonus mobili. Il canone RAI sarà dovuto in 10 rate mensili che si pagheranno con la fattura bimestrale della bolletta elettrica, ridotti i tagli a CAF e patronati, contante a 1000 euro per i money transfer, 25 milioni vanno alle università per gli scatti premiali ed ancora criteri ad hoc per l'accesso al fondo di garanzia ILVA per i piccoli fornitori dell'indotto, capitolo turismo nautico e infine approvato l'emendamento con cui diventa norma stabile l'IVA turistica al 10% per gli ormeggi a breve. Darà forza al settore, spiegano dalla Confindustria Nautica. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta anche per questo aggiornamento. Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUISS Guido Carli di Roma, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Allora, leggiamo oggi le cronache del terrorista che è stato ucciso nel blitz a Saint-Denis, quello che è considerato la mente degli attentati, Abdelhamid Abaoud. Sarebbe stato in Siria 6 volte e poi avrebbe colpito nella strage. Ora, nei primi giorni, dottori, abbiamo detto non è facile controllare questo terrorismo perché è fatto spesso anche di cani sciolti, è difficile. Difficile anche per i servizi di intelligence stare dietro a tutto quello che avviene. Detto ciò, quello che apprendiamo oggi sembra dimostrare che un buco i servizi francesi l'hanno preso e anche bello grosso. Ma vede, io sono molto più indulgente nei loro confronti perché mi rendo conto delle difficoltà che affrontano, mi rendo conto della complessità della sfida, tengo conto del fatto che viviamo in un'Europa in cui non ci sono frontiere e uno può tranquillamente decidere di basarsi in Belgio e poi sfruttare le difficoltà di controllo che ci sono in quel paese dove operano a Bruxelles specialmente 5 polizie che tra loro non si parlano. E c'è comunque da ricordare il fatto che le persone cosiddette attenzionate oramai sono migliaia, mentre, tanto per dirne una, il servizio interno francese ha circa 2.500 effettivi. Come si fa? Dobbiamo ammettere che ci sono dei problemi, ci sono dei limiti, che la difesa perfetta non esiste e credo che ci sia anche questo dietro la decisione dei francesi di adottare uno schema diverso e quindi di affiancare alle misure preventive anche delle misure offensive. Loro hanno fatto delle rappresaglie. Si sono messi più o meno sulla stessa strada della Giordania che reagì bombardando all'uccisione barbara del suo pilota catturato dallo Stato Islamico. Il punto è che, almeno a vedere quello che è successo oggi, la prima rappresaglia non è bastata, perché insomma non ci sono molti dubbi sulla natura e il vero bersaglio dell'attacco di questa mattina a Bamako. Che sono appunto i francesi? Sì, assolutamente. È stato assaltato un albergo internazionale, ma il piano dove si è concentrata particolarmente l'iniziativa dei terroristi è quello nel quale trovano normalmente il loro riposo gli equipaggi di Air France che raggiungono la capitale maliana, il che mi sembra assolutamente significativo. Come d'altra parte significativo che esista una linea che collega direttamente la Turchia a Bamako, c'erano anche delle persone, degli equipaggi degli aerei di Turkish Airlines in questo albergo che è stato sequestrato, e a quanto pare anche le notizie che arrivano dalla capitale maliana sono riversate sulla rete internazionale in prima battuta dall'agenzia turca Anadolu. Questa è una cosa di un estremo interesse, come se a dare le notizie su quello che accade in Mali fosse l'ANSA anziché un'agenzia locale o un'agenzia francese. Lascio agli ascoltatori l'interpretazione di tutto questo. La ringrazio, Germano Dottori, docente di studi strategici alla LUIS. Magari un'interpretazione la possiamo chiedere anche ad Andrea De Giorgio, chi è un giornalista freelance e analista per ISPI, scrive anche per l'IMES, è normalmente basato proprio a Bamako, la capitale maliana, e in questo momento è in Italia, però magari ci può aiutare innanzitutto a dare un'interpretazione a questa frase che il dottore ha lasciato sospesa. No, buongiorno a tutti, sicuramente fa riflettere il fatto che ora in questo momento per seguire le notizie dal Mali dobbiamo stare attaccati all'agenzia turca. Questo però fa anche, secondo me, la cosa più interessante, il riflettere su di noi, sui nostri media occidentali che si svegliano all'indomani dell'attentato a Parigi, l'ennesimo sia in Europa che nel mondo, non conoscendo questi teatri, non interessandosi, pensando che il Mali, Timbuktu o Gao, questi luoghi lontani, siano appunto che non c'entrino niente con quello che succede qua. Purtroppo non è vero, lì esiste un jihadismo, esiste una radicalizzazione dell'Islam che sta portando gravi problemi e lo stiamo vedendo oggi. Allora, intanto io voglio aggiornare i nostri ascoltatori con le notizie che stanno arrivando in questi minuti. Innanzitutto che la Francia invia 50 agenti del corpo d'élite proprio a Bamako, ma soprattutto che sarebbero salvi, anzi lo fa sapere proprio l'Air France, quindi sono salvi 12 membri dell'equipaggio dell'Air France che si trovano all'hotel Radisson Blu di Bamako, appunto capitale del Mali. Questa radicalizzazione, Andrea, che rapporti ha con l'ISIS? Qual è il punto di contatto con l'ISIS? Prima di tutto bisogna ricordare, secondo me, per fare un attimo un passo indietro prima di entrare nello specifico nel Sahel e nella realtà del Mali, bisognerebbe capire che oggi noi parliamo tanto di ISIS e di altre sigle come Boko Haram, Al-Shabaab, per parlare del jihadismo in Africa, ma oggi il neo-jihadismo, come lo chiamano gli esperti, ha tante sfaccettature diverse, differenti, che bisognerebbe, come dicevo prima, prestare più attenzione e studi a questo. Per quanto riguarda la realtà dell'Africa occidentale e in particolare del Sahel, dove il Mali appunto è ubicato, bisogna ricordare che ci sono la parte più importante di jihadisti che ha occupato militarmente il nord, le tre regioni del nord nel 2012, a cui poi ha fatto seguito l'intervento francese a gennaio 2013 per scacciarli. Sono soprattutto figli di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, questa sigla che ricordo appunto riporta subito alla mente ad Al-Qaeda, una vecchia conoscenza in Occidente. Invece la nuova conoscenza, l'ISIS, che fa più paura evidentemente per un modus operandi differente e un'ideologia anche ancora più estrema di quella di Al-Qaeda, sta cominciando nel panorama, nella galassia del jihadismo in Mali, a prendere piede soprattutto rispetto ad alcuni gruppi che sembrano, alla luce delle prime informazioni che abbiamo da Bamako, ancora frammentarie, gli autori di questo tipo di attacchi. C'è stato un altro attentato a Bamako tra il 2 e il 3 di marzo di quest'anno, se ne è parlato molto poco, però gli obiettivi erano gli stessi, cioè la convivenza tra occidentali che lavorano in Mali come soprattutto nell'ONU o come umanitari e la popolazione locale. Questo è il questo gruppo e dunque questo gruppo che ha colpito oggi è in qualche modo riconducibile, come ti dicevo, a contatti con il terrorismo che sta colpendo in Occidente? Questo è indubbio, era già chiaro che fossero presenti nella capitale Bamako da mesi, già preoccupavano le ambasciate soprattutto americana e francese per via dell'alto numero, relativamente alto numero di loro cittadini presenti a Bamako e nel Mali, però bisogna ricordare che non ci sono al momento, per quanto stanno pubblicando tantissime cose su Twitter e rimbalzando come succede spesso in questi casi, ma non c'è al momento nessuna rivendicazione ufficiale passata al varo degli esperti, c'è solo un video di qualche giorno fa, addirittura sembra, cioè di 20 giorni fa, di leader di uno di questi gruppi, del gruppo Ansar ad-Din, di cui si sta sentendo parlare anche molto spesso, sentendo la pronuncia sbagliata dei colleghi della stampa italiana, però questo tralasciamo. Ansar ad-Din è un gruppo guidato da Yad Agali, e che questo Yad Agali 20 giorni fa ha rilasciato un video in cui incita all'odio soprattutto contro i francesi, che sono i rappresentanti dell'Occidente in Mali, in Africa occidentale. Io ti ringrazio, grazie Andrea De Giorgio, giornalista freelance, lo ricordiamo, analista per l'ISPI, per l'IMES, normalmente basato a Bamako, che in questi giorni è in Italia. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, subito dopo ci ritroviamo e ritorniamo a parlare di questa operazione antimafia di oggi e di questi boss che avrebbero pensato ad uccidere il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: l'attacco in corso in un hotel della capitale del Mali, sono state presi decine di ostaggi, tra cui diversi francesi, almeno 3 vittime, sarebbero in salvo 12 persone di equipaggi di Air France. Ritrovato un terzo corpo nel covo dei terroristi di Saint-Denis e coprifuoco in un quartiere parigino dalle 22 alle 6 dopo il ritrovamento di armi. Impegnerà oltre 2.000 uomini ed entrerà in funzione dal lunedì prossimo, 23 novembre, il piano per la sicurezza del Giubileo. Arrivano i metal detector al Colosseo. Sono state rubate 17 opere d'arte al Museo Civico di Verona, tra queste 5 quadri di Tintoretto e dipinti di Rubens e Mantegna. Alla borsa. Anima, miglior gestore fondi Italia Big 2015 secondo l'Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Vi presenta Effetto giorno. E prima di tornare a parlare dell'operazione antimafia di questa mattina, un paio di aggiornamenti che arrivano innanzitutto dal Mali, dove si apprende che ci sono 15 militari italiani nel paese dove, come avete sentito, nella capitale sta avvenendo un attacco ad un hotel dove c'erano molti stranieri. Nessuno è coinvolto nell'attacco, era all'interno dell'hotel, sono là nell'ambito di 3 diverse missioni internazionali. E l'altra notizia arriva dal questore di Roma, che in questi minuti sta presentando il piano per la sicurezza per il Giubileo. Ha annunciato, come vi abbiamo riferito poco fa, 2.000 uomini in più a partire dal 23 novembre. Dice: tra pochi giorni vareremo un nuovo sistema di controllo sui mezzi ATAC e su tutto il trasporto urbano. Saremo presenti sugli autobus con le nostre pattuglie. E veniamo dunque all'operazione antimafia e siamo in linea con Nino Amadore, corrispondente del Sole 24 Ore da Palermo. Nino, eccoci. Buongiorno a tutti. Buongiorno, abbiamo riferito e ne hai riferito anche nel tuo servizio di queste conversazioni tra i boss nelle quali avrebbero ipotizzato di un attentato al ministro dell'Interno, Angelino Alfano. Che cosa rappresenta questa operazione, Nino? Ma questa operazione intanto, come possiamo dire, sventa dei tentativi, un omicidio, diciamo, dei progetti che questa organizzazione nell'area del Corleonese, fra Corleone, Chiusa Sclafani, Palazzo Asiano, insomma nell'area, in quell'area che possiamo definire l'area dei Viddani, no? Cioè della mafia tradizionale, stavano organizzando. Rappresenta anche una riscoperta, la riscoperta della mafia rurale che non si arrende per nulla, cerca di riorganizzarsi, di cambiare strategia e ripropone vecchi modelli, i modelli a cui siamo abituati, fondamentalmente i modelli della mafia di Totò Riina e di Bernardo Provenzano. E all'interno di questa organizzazione ci sono proprio le due anime della mafia corleonese. Da una parte Lobue, che era reggente nominato da Provenzano, considerato troppo pacifista, in fondo portava avanti la politica dell'inabissamento, fare affari senza fare molto rumore, e dall'altra invece la fazione di Totò Riina, che voleva, invece scalpitava per fare azioni un poco più pesanti, più eclatanti, aspettava la scarcerazione di un nipote del boss, che dovrebbe avvenire nel 2018. L'attentato ad Alfano, hanno spiegato i magistrati, non era proprio un progetto, almeno così hanno detto, era semmai un'ipotesi, la dovevano far pagare, perché dice questo si è preso i nostri, Forza Italia, questo mondo si è preso i nostri voti e ora invece aiutano a inasprire il 41 bis. Cioè, pur preoccupante, era una sorta di pourparler tra i boss, per così dire, più che un progetto vero e proprio. Non proprio un progetto, ma forse un po' di più di un pourparler. Cioè, era una cosa che loro pensavano di fare, che prima o poi avrebbero fatto, magari approfittando, diciamo, una volta che Alfano non avrebbe più avuto, diciamo, la tutela, la scorta e così via. Questa era, diciamo, la discussione. Poi il riferimento a Kennedy è quasi un fatto di colore. Sì. Il procuratore ha detto: avranno visto troppi film. Ecco. Ti ringrazio, grazie a Nino Amadore, corrispondente del Sole 24 Ore da Palermo. Su questo abbiamo anche l'analisi di Daniele Biacchessi. Se c'è l'accordo, lo eliminiamo. I carabinieri sentono questa frase mentre stanno ascoltando le conversazioni di due boss del mandamento di Corleone, il cuore di Cosa Nostra in Sicilia. Ma chi vogliono uccidere i due mafiosi? Il ministro dell'Interno Angelino Alfano, per aver inasprito il 41 bis, il carcere duro per gli appartenenti alle cosche. Chi l'ha portato qua con i voti degli amici? È andato a finire là con Berlusconi e ora si sono dimenticati tutti, dicono. Come accadde nell'estate del 93, nei giorni delle stragi di Via Palestro a Milano, Via dei Gergofi da Firenze, delle bombe contro il Velabro, Laterano e di Via Faura a Roma, la mafia oggi ha paura ancora del 41 bis, perché è un regime carcerario che non permette la trasmissione di ordini tra detenuti chi sta fuori, che riduce al minimo la libertà dei boss, costretti dunque ad accettare loro malgrado un ruolo di secondo piano nell'organizzazione. Se due boss di Corleone intendono uccidere un ministro dell'Interno, vuol dire che Cosa Nostra ha scelto la linea della guerra allo Stato. Un segnale che di questi tempi non è certamente da sottovalutare. Un aggiornamento su una notizia che vi abbiamo dato poco fa. Molto probabilmente è stato un falso allarme all'ospedale San Giovanni, quello di un medico che avrebbe visto un uomo entrare con un fucile e poi uscirne. L'oggetto che ha destato preoccupazione potrebbe non essere un fucile, lo riferiscono, lo fanno sapere le forze dell'ordine. Oggi è la giornata mondiale dell'infanzia, il servizio. Nulla racconta l'anima di una società quanto il modo in cui tratta i suoi figli, diceva Nelson Mandela, ed è anche a questo messaggio che si ispira la petizione online dell'UNICEF per i diritti dei bambini migranti e rifugiati, solo una delle tante iniziative organizzate in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e nel 26esimo anniversario dell'approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un trattato ratificato da tutti i paesi tranne gli Stati Uniti e solo da poco anche dalla Somalia. Il portavoce dell'UNICEF Andrea Iacomini. Il trattato più ratificato al mondo ma anche il più violato. Ci sono risultati sicuramente positivi. In poco più di una generazione il mondo ha dimezzato il tasso di mortalità infantile, il 90% dei bambini è andato a scuola primaria, sono aumentate il numero di persone, circa 2,6 miliardi che hanno accesso all'acqua. Però ancora oggi i minori rappresentano per esempio la metà dei poveri del mondo. Ci sono 250 milioni di bambini che vivono in paesi devastati dai conflitti. Altre 200.000 di loro rischiano la vita quest'anno cercando rifugio in Europa. Insomma, il quadro generale presenta ancora molte criticità. Ma come intervenire allora per garantire i diritti dei bambini? La cosa più importante è puntare sempre di più sull'istruzione, poi sviluppare delle grandi politiche di equità. E poi diciamolo, bisogna portare pace. È davvero assurdo che 14 milioni di bambini oggi vivano in Siria, in Iraq, in Afghanistan ad affrontare guerre, conflitti e ingiustizie. Questo secondo me deve essere un grande impegno. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi c'è il nostro Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.